5 luglio del 2023 inizia prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30, allorché ci sarà poi 25 o'clock. Il sito è www.ondarossa.info, dove si possono trovare le modalità di adesione per quanto riguarda la possibilità di sottoscrivere per questa emittente, che ormai tutti sanno, priva di pubblicità da lontano 1977. Ivi compreso il conto corrente postale intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Verevolci 56 00 185, il numero è 6180 40 01, ma chiaramente anche questo si trova nel sito della radio. Saluto Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, un saluto a Marcio Gronge, Valerio Michetti e Trinity della Grazia Obliqua e non solo. A Boston, USA, Desde Carlo di Violet Knox, Antonio Zovert di Omicidio a Firenze. Saluto Tiziano Farinacci di Pi Greco. Anna qui a Roma. Venusia Zozzetta Stramonio, con una bella foto di Monti Casazza del quale parleremo più avanti. Abbiamo Like a Wake, la storia ambient qui a Roma. Francesco Cornello, Simone Scalise di Radio Caos. Buonasera all'affezionato Giuseppe Verticchio di NIM. E puntuale la nostra analisi sulla scena latinoamericana dal punto di vista dell'industrial e dell'isperimentazione, sfruttando questa compilation ideata naturalmente da Raffaele Pezzella. Latin American Music Survey, Anthology of Experimental Music from Latin America, esce attraverso la Nesplay Sounds Group Production e chiaramente si può trovare sul profilo Bandcamp. E questa sera ci incentriamo la nostra attenzione su un paio di tracce abbastanza brevi, rispettivamente di DLP Electronics dal nome Atizar e poi Paolo Motta con Index del Dial Maracatu. Abbiamo aperto dunque con queste due proposte estratte da Latin American Music Survey, Anthology of Experimental Music, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque, note musicali provenienti dal Sud America in questa circostanza, impulsi nervosi e sperimentali di DLP Electronics con Atizar, che peraltro hanno anche provocato lo spirito, diciamo, poetico della nostra Venusia Zozzetta Stramonio, alla quale dico che attizzare non significa probabilmente attizzare, ma che, diciamo, è un gergo non soltanto romanesco, vedo che lo si può estendere sul territorio nazionale. E dopo attizzare c'è anche Index Dial Maracatu di Paolo Motta. Saluto Flavio Derbecante di Noise Cluster. Antonio Zoviet cita giustamente anche Monolake, anche se qui sono ripresi e forse anche un po' stravolti dal punto di vista della tensione sonora. Il caso vuole, avendolo anche già nominata, Venusia Zozzetta Stramonio, ce l'andiamo ad ascoltare attraverso Cupio Dissolvi, che ci sta facendo compagnia da molte settimane e ci accompagnerà a lungo. Questa sera è il turno di Ipotermia, estratta dalla Cruna del Lago, e poi la cruna dell'ego, un gioco di parole non indifferente, a testimonianza della estrema versatilità poetica veramente e di scrittore da parte di Venusia. E poi abbiamo John Balance, che ovviamente è dedicata all'indimenticato leader dei Coil. Yeah.

Abbiamo dedicato dunque uno spazio ulteriormente per Cupio Dissolvi di Venusia Zozzetta Stramonio. Partiture di vera e propria sofferenza esistenziale nella prima traccia, ipotermia, una selva di rumori e poi una sorta di omaggio, ritengo, a John Balance, portava il nome stesso, quindi per estensione un omaggio ai Coil, estratto da Fannato Mimesi. Un album che è uscito il 6 aprile di quest'anno attraverso la Luna Etic di Daniele Santagiuliana e che è una compilation che racchiude materiale a partire dal 2005. Nel profilo Bandcamp si può trovare gran parte del materiale datato o meno di Cupio Dissolvi e veramente ve lo consiglio, gran parte anche in free download. E nel frattempo è entrato anche Nicola Locci all'ascolto di Stigmate Hexagonal. Ci tuffiamo in qualcosa di iniziatico, di ritualistico sacrale a loro modo, i New Procession Order, ritornati dopo 4 anni di silenzio con And Now the Judgment. Una alternanza sapiente appunto tra atmosfere dilatate e ritualistiche e invece pulsante elettronica. Parte la title track e anche la successiva What is the process? Caller. Yeah, say, we're currently investigating cults, and I was wondering, do you know about the cult called The Process, a very secretive cult? We have found through that there was a possibility Charlie was involved at one time with that cult. incredibly difficult to defend yourself. Due tracce assai diverse tra di loro, la contemplativa e sciamanica. Title track Now the Judgment e poi la più pulsante elettronica What is the Process. Effettivamente un bel mix tra suggestioni coil ed altre Claude DVA. Un grande lavoro con Alessandro Papa, Marcello Fraioli, Gloria Bazzocchi, che esce per la Endo Kali Yuga Edition. È uscito il 1 giugno, quindi recentissimo, quindi circa un mesetto fa. Buonasera a Filippo Panichi, in quel di Firenze, altra eminenza grigia della sperimentazione italiana. Il disco è andato avanti, è arrivato qui 25 o'clock che a breve andrà in onda. Allora, qualche giorno fa ci ha lasciato Monty Casasa, artista fondamentale per la scena industrial. Ispirazioni per molti che poi sono venuti successivamente. Cresciuto anche insieme a Throbbing Gristle, quel circuito musicale e culturale particolarmente trasgressivo e avanguardista che ha caratterizzato da un lato sia la Gran Bretagna ma anche degli Stati Uniti. E allora abbiamo qui una sorta di compilation dal nome The Worst of Monty Casasa. Andiamo a fare un ripassino ordunque con To Mom on the Mother's Day, con anche appunto Throbbing Gristle ospiti al pari della traccia successiva Candyman e poi Rabid Rats Vietnam. Tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day. It was in the back room at the candy factory. Dean Coral invited Douglas Edward to sleep in. He installed a pool table in the back room and taught the youngsters to play first. He amused them with a huge green frog he had rigged up. Dawes would light up when the telephone rang. By pushing a button, Coral could talk to the caller while playing pool. Then his work rates at the power complex. Coral could obtain extremely thin glass rods. He enjoyed inserting these rods in victims' penises and snapping them off. He also pulled out his victim's pubic hair with his strong fingers or a sharp plier. He would grease the huge dildo, insert it in the victim's anus, then manipulate it vigorously before committing sodomy on the youth. There were times the victim's sexual organs got cut off. Steering up at them through the clear plastic sheet were the distorted features of a young boy. A heavy nylon cord appeared to be embedded in his neck, and a rust brown stain on the inside of the plastic half obscured his head. The detective sketched the bedroom layout and recorded its contents in his report book. Pondering as he did so, the strange array of items he was listing. A large sheet of plastic covering the beige rug obviously had been cut from the roll of plastic in the corner, and obviously it was spread to protect the rug from whatever activity had been taking place. The roll was 4 feet wide, the torture board with handcuffs fastened to each corner, the connecting chains running through large holes bored in the wood, measured 2.5 feet by 8 feet long. The detective found 2 sets of handcuffs, including 2 sets in the living room. Keys to the handcuffs were scattered about the floor. On the floor also was a large knife in the sheath, a huge bayonet-type weapon, a roll of binding cord, and a black box containing a dildo 17 inches long, the two with the petroleum jelly. In the larger bedroom across the hall, he found a gas mask or smoke mask that fitted completely over his face, with vision afforded through the clear plastic front. The clothes closet was full of clothes. Esponente di spicco dunque di quella che fu la controcultura americana, Monty Casazza, scomparso il 29 credo giugno, 29 o 30 adesso non ricordo bene, Leggo una considerazione di Anto Zoviet. Monti Casasa è anche Temple of Youth, non solo industrial. È l'idea di andare contro tutto quando consolidi che il mondo che ci circonda è morto e non ha nulla da dare oltre al perbenismo e al qualunquismo consumismo. Inquadrando il tutto, soprattutto nell'epoca odierna, sicuramente il messaggio, la cultura, l'arte di Monti Casasa resta assolutamente attuale nel contrastare una sorta di pensiero unico. Il tutto è estratto da The Worst o Monti Casasa, anziché The Best, The Worst. Ed è quindi anche intuibile come di tanto in tanto sorgano anche degli sprazzi di ironia non indifferente. Vi confesso apertamente che non so il vero nome di Monti Casasa, forse non lo sa nessuno, magari qualcuno di voi invece è più informato di me. Mentre saluto Antonella, Germano Brucato dalla Sicilia e Laura Spirit Crusher. Torniamo in Italia, esattamente qui in parte a Roma con Marcio Gronge, che è andato a collaborare con un esponente invece della sperimentazione dell'industrial piemontese, ossia Petrolio, ed hanno ideato questa una guerra di soldatini, un geniale excursus elettronico sperimentale. Ritengo tra le migliori cose di questo 2023, uscito proprio recentemente anche su Bandcamp. E allora ci ascoltiamo Attentato all'aeroporto di Barbie e Jim e Space Invaders Transcendental. Good, small strong fingers go round his... We'll be right back. passports, please? Yes. Okay. Some information on your flight has changed. Sure. What's changed? Did you not get an email from the airline?